sono stato troppe volte impegnato, se non ti ho cercato. Scusa se ancora penso che io di te sono innamorato, scusa se voglio ancora te, scusa se